Giro di vita di Achille Corea e Fabrizio Intonti. Facendo un programma in cui tutti i giorni si ascoltano storie di chi ha cambiato vita, e spero anche ascoltandolo questo programma, uno cerca di capire qualcosa, di imparare qualche informazione utile, di carpire qualche principio fondamentale. Io ad esempio pensavo che facendo questo programma avremmo sentito solo storie di persone che hanno avuto scelte avventurose, che hanno cambiato vita grazie a delle abilità straordinarie, che ne so, magari gente che sapeva fare dei mestieri rarissimi che nessun altro sapeva fare, oppure che sapeva una caterva di lingue parlandole benissimo. Invece poi scopri che a volte si può cambiare vita anche facendo un mestiere comune e anche tenendosi stretto l'italiano, questa lingua con la quale noi a volte ce la prendiamo dicendo vabbè, ma se sapessi l'inglese, se fossi nato madrelingua inglese. E invece c'è gente che viaggia il mondo insegnando l'italiano, un mestiere comune, un mestiere normale, un mestiere considerato quasi sedentario, che invece ad alcune persone ha permesso di cambiare paese, vita, abitudini. Se anche voi avete insegnato italiano all'estero, se questo mestiere vi ha permesso di mantenervi per un po', di girare il mondo, se questo è il vostro progetto, chiamateci 800 24 00 24. Silvio, rimembri ancora il tempo della tua vita mortale. Mortaccia sua, mi sono sbagliato. Quando beltà splendei negli occhi tuoi e nei denti fuggitivi. Porca puttana, non mi entra in testa! Silvia, rimembri ancora quando ti ho chiesto l'ora? Non fate gli spiritosi che vi carico dei compiti a casa, vi faccio neri, eh? Cioè, neri... Vabbè. Va bene? Sì. Silvia, rimembri ancora il tempo della tua vita mortale, quando vita splendida. Il militare della gioventù. Ma militare o limitare? Ma che militare? Il limitare! Silvia, rimembri il tempo din sulla vetta della torre antica? Porca miseria, mi sto sbagliando con... Col passero! Sta di mezza Silvia e mezzo passero! Sto cazzo di passero! E beh, tanto per scherzarci un po' su, questo era Verdone in acqua e sapone, che faceva l'insegnante di italiano per stranieri, lo faceva a Roma, mentre invece è un mestiere che può permettere di viaggiare, di scoprire altre città, altre nazioni, e noi di questo oggi parliamo. Benvenuti a Giro di Vita, lunedì 30 agosto, comincia la nostra ultima settimana, noi abbiamo tempo fino a venerdì 3 per raccontarvi storie, emozioni, vicissitudini di chi ha deciso di cambiare tutto e inventarsi un nuovo inizio. Oggi facciamo un cambio di vita normale, ve l'ho detto, ma magari insomma anche su questo voi avete qualcosa da dirci e da raccontarci. 800 24 00 24 è il nostro numero. Giro di Vita è, oltre al nome del programma, anche il nome della nostra pagina su Facebook. Potete aggiungervi, scriverci, entrare in contatto con noi e con gli altri ascoltatori del programma. Io sono Achille Corea e la prima persona che sentiamo oggi è Marco Dominici, benvenuto. Grazie, ciao a tutti. Marco, tu hai cambiato vita, mi pare, 7-8 anni fa. Eri in Italia? 8 anni fa. Eri in Italia, vivevi in Italia, cosa facevi? Sì, ero in Italia, insegnavo come precario nelle scuole patrie e poi, insomma, avevo mandato dei curriculum per insegnare all'estero, perché era un mio sogno da molto, e stranamente mi hanno risposto e sono partito. Dove avevi mandato questi curriculum? Avevi scelto dei paesi particolari? No, a pioggia proprio, ovunque sarebbe stato bene, dall'Australia all'Argentina, e sono andato in Siria. Sei andato in Siria, a Damasco, e hai capito subito che quella sarebbe stata una nuova vita o pensavi che sarebbe stata una cosa temporanea? Ma sai, io ero partito solo con l'entusiasmo di conoscere un mondo completamente nuovo nel modo in cui più amavo, nel senso di insegnando l'italiano agli stranieri. Poi andando avanti ho capito, non ho mai capito bene se avrei potuto continuare, ma vivevo, diciamo, proprio mese per mese. Era una cosa anche un po' così avventurosa da questo punto di vista, perché non c'era sicurezza. Quando hai iniziato a capire che non saresti tornato in Italia? Ma sai, il fatto che appunto non c'erano contratti, era una situazione molto precaria, ero in un periodo in cui c'era la guerra con l'Iraq, era cominciata in quel periodo. Quindi insomma, immaginavo che non sarebbe durato molto, però ho fatto in modo che durasse il massimo, insomma. Tu sei ancora a Damasco? No, ora sono ad Atene. E sono come mai? Trasferito, sono moglie figlia. Hai fatto un altro giro di vita verso Atene? Sì, invece che tornare in Italia come era quasi forzata la situazione quando ero lì, abbiamo trovato un'occasione qui in Grecia e ci siamo detti perché no? Siamo a metà tra la Siria, dove abita mia moglie, dove abitava mia moglie, e l'Italia, dove ci sono i miei. Ah, perché tu ti sei sposato comunque in Siria? Sì, ho unito l'utile al dilettevole e ho sposato una delle mie studentesse. Il sogno timore di tutte, vabbè, però insomma in questo caso non si insegna, diciamo, solitamente. No, assolutamente. Insomma, era abbondantemente maggiorenne, immagino. Assolutamente sì, 30 anni, non è che erano bambini. Ah, io insegnavo ad adulti, giovani adulti, sui 25, da 25 in su. Senti, era l'esperienza che ti immaginavi? Tu, andando a insegnare italiano all'estero, hai conosciuto il mondo, hai conosciuto una cultura diversa, un posto diverso? Sì, quello che mi immaginavo, io non mi immaginavo niente della Siria, non avevo nessun tipo di preconcetto, questo devo dire che mi ha aiutato ad andare lì con la mente sgombra di ogni tipo di idea preventiva che potevo avere, però lì ho imparato veramente a conoscere molto la realtà, perché gli studenti poi diventano amici, ti invitano a casa, ti invitano fuori, fai la loro vita e questo è l'aspetto più bello. Senti, chiariamo un po' di cose pratiche. Tu insegni italiano all'estero perché hai mandato curriculum, non è una strada, c'è una strada diciamo ministeriale, se non sbaglio, ci sono docenti che vengono mandati nelle scuole italiane all'estero, ma non stiamo parlando di quello, tu hai seguito una via privata. Una più privata, che dico a tutti di non farlo, perché comunque ormai negli istituti italiani non prendono comunque, prendono solo persone che sono dentro dagli stati che vivo. Io sono stato fortunato perché in quel momento in Siria non c'era nessuno e hanno chiamato me, ero uno dei pochi che aveva mandato il curriculum. Ora negli istituti ti sentiamo un po' così, cerca un punto riparato. Capisco che Atene magari si cerca un punto riparato. La crisi. Cerca di non finire in un tafferuglio. Quindi tu consigli di andare prima nei paesi e poi da lì cercare di trovare una scuola che ti si accatti, diciamo, che ti assuma. Ma guarda, magari cercare attraverso l'istituto altri contatti, perché magari l'istituto ti può dire: noi non abbiamo bisogno, ma l'università cerca dei collaboratori annuali o semestrali, allora sì. Però ecco, magari capire bene prima come si può lavorare nel paese, perché andarci così all'avventura no. Quindi scegliere. Va bene, Marco, senti, speriamo che la tua telefonata è stata comunque di stimolo ai nostri ascoltatori. Chiudo chiedendoti una cosa relativa al tuo bagaglio e alla tua esperienza. La valigia e la zavorra. Marco, che cosa ti sei portato dietro in questo cambio di vita, dall'Italia all'estero? Guarda, non avevo portato niente, ma inconsapevolmente poi ho scoperto di aver portato la buona fama che abbiamo noi italiani all'estero, immeritata o meritata che sia. Abbiamo una fama molto positiva, perlomeno nei paesi dove sono e dove sono stato, molto bene. Io non sapevo che sarebbe stato così ben accetta la mia italianità, e questa è stata una bella sorpresa di aver trovato nella valigia, diciamo. Siamo ancora quelli del mangiare bene, vestire bene. Sì, soprattutto in certi paesi, ecco. Bene, e che cosa hai buttato? Qual era la zavorra che hai abbandonato? Ma la zavorra era quella di forse un po' di rassegnazione che mi aveva preso. Allora ho trovato nuovi stimoli, sicuramente, che forse in Italia avevo un po' perso. Allora, la voglia di fare. Va bene, quindi hai ritrovato un po' questo sulla via di Damasco, come si dice in questi casi. Grazie Marco Dominici per essere stato con noi. Se avete esperienze simili o le cercate, 800 24 00 24. Giro di vita. Controindicazioni. Questa scelta di vita è sconsigliata se pensate di farvi capire dagli stranieri usando solo verbi all'infinito. Il primo proverbio che insegnate ai vostri allievi è: moglie e buoi dei paesi tuoi. Per scrivere coccodrillo usate 3 volte la lettera K. Volete iniziare gli studenti ai rudimenti della lingua facendogli vedere l'opera omnia di Carmelo Bene. Il vostro punto di riferimento per la pronuncia corretta è Aldo Biscardi. Beh, io spero sempre che voi non siate, ma non lo siete di sicuro, insomma, a livello dei profili che noi sadicamente disegniamo poi nelle nostre controindicazioni. Certo, insegnare italiano non è un lavoro che si improvvisa, però è un lavoro alla portata, diciamo, rispetto, no, a andare a veleggiare, oppure tutti questi aspiranti ristoratori che non hanno mai acceso un fornello, non hanno mai cucinato per più di 3 persone, però bisogna comunque sapere un po' di cose, bisogna essere preparati, avere un minimo di idea di su dove andare. Allora noi, come facciamo sempre, chiediamo a qualcuno: e se lo facessi io? E se lo facessi io? L'ospite che abbiamo oggi per questa rubrica centrale all'interno di Giro di Vita è Giorgio Piva, che è responsabile della scuola D'Elite di Roma. Benvenuto. Buon pomeriggio a lei. Allora, la vostra scuola è una di quelle scuole che si occupa di formare gli insegnanti, quindi non solo di insegnare, ma anche di preparare gli insegnanti ad andare all'estero e, insomma, insegnare la lingua. Sì, diciamo che la nostra attività principale è l'insegnamento italiano come lingua straniera, però fin dall'inizio della nostra attività, che risale all'anno 74, quindi piuttosto lontano nel tempo, sentivamo l'esigenza di mettere in classe personale docente che fosse qualificato, quindi era necessario istituire dei corsi di preparazione specifici, perché, ahimè, purtroppo l'università non ha sbocchi di questo tipo. E tutti questi anni, come è, diciamo, la tendenza su questa professione, su questo tipo di vita? C'è molta richiesta, e poi quanti effettivamente possibilità ci sono? Ma dunque, noi abbiamo corsi 6 volte all'anno, che durano 4 settimane, e i nostri corsi sono completi perché sono a numero chiuso, fino a 9 partecipanti, e sono completi ormai da diversissimi anni. Dunque c'è una domanda, c'è una richiesta di formazione professionale di questo genere. Ma in quanto tempo preparate una persona a insegnare? Allora, il nostro corso dura 4 settimane, quindi è piuttosto molto intensivo, ma anche molto concentrato nel tempo. C'è un ascoltatore che mi chiede che cosa bisogna essere laureati. È un percorso per laureati in lettere o simili, o si può, diciamo, cercare una scelta di vita del genere anche dopo un percorso diverso, secondo la sua esperienza, un'area scientifica, eccetera? Ma guardi, per partecipare ai nostri corsi di formazione è richiesta una laurea, ma non specificamente di stampo linguistico o letterario, anche se naturalmente una preparazione di questo genere aiuta. Il nostro corso di formazione è orientato fondamentalmente alla prassi, alla pratica didattica in classe, dando per scontato che chi lo fa ha una conoscenza e una competenza linguistica adeguata. E, diciamo, ma capita anche che voi vi accorgiate che invece questa competenza non c'è? Ci sono, non so, delle doti particolari, anche umane, che secondo voi uno dovrebbe rendersi conto di avere o meno? Beh, noi facciamo precedere l'iscrizione al corso lo facciamo precedere a un colloquio, quindi il candidato si presenta e sostiene un colloquio con il responsabile della formazione, e al termine del quale si stabilisce se il candidato è idoneo, secondo i nostri criteri, secondo i nostri pensieri, a seguire il corso di formazione. Quindi cerchiamo di anticipare eventuali problemi che si possono poi invece evidenziare durante il corso, evitando alle persone di perdere tempo e denaro. Senta, un consiglio, perché mi è sembrato di capire che poi la strada, una volta anche avuti tutti i titoli per andare a insegnare italiano nei vari paesi, non sia così, come dire, specifica, è un po' nebulosa, bisogna mandare curriculum, mandare, cioè praticamente uno, una volta ottenute tutte le certificazioni che servono, che cosa deve fare, come si deve muovere? Ma dunque, il discorso è un po' complesso, perché l'italiano si insegna un po' in tutto il mondo e per esperienza le dico che in larga parte si insegna in istituzioni private dove non viene richiesto un particolare titolo, proprio perché gli italiani in giro per il mondo non ce ne sono tanti e dunque già essere madrelingua è un requisito interessante. Certo è che diciamo, passando il tempo si cerca di ottenere docenti sempre più qualificati e bisogna anche aggiungere che sempre di più italiani giovani che non trovano, ahimè, sbocchi professionali in Italia si guardano un po' più lontano. In questo caso è assolutamente consigliabile di seguire un corso professionale perché poi naturalmente questo diventa un titolo di merito, un titolo in più rispetto ad altri. E, durante il nostro corso noi forniamo anche ai partecipanti degli indirizzi di scuole che ci hanno contattati chiedendo appunto di informarli su partecipanti ai nostri corsi che terminano il corso con ottimi risultati, quindi c'è anche questa possibilità. Viceversa, la cosa più semplice è scegliere un paese, andarci e lì purtroppo spendere un po' di tempo cercando scuole, istituzioni, organizzazioni dove si insegna italiano. Quindi formatevi e partite, insomma, scegliere un paese magari può essere anche visto come un segno di interesse probabilmente dalle scuole di quel paese, no? Sì, certamente sì, e comunque oggi internet fornisce una quantità di informazioni incredibili, quindi anche stando a casa si può cercare di ricavare indirizzi vari paesi europei ed extraeuropei di scuole, organizzazione, quindi si può certamente tentare la strada di fare una richiesta mandando curriculum rimanendo a casa. Sì, però insomma, magari partire da qualcosa in più. Io ringrazio Giorgio Piva, ricordo a proposito di internet anche il loro sito internet che è dilit.it e vi invito a chiamare all'800 24 00 24. Vorrei un biglietto per l'Italia. Vorrei un biglietto per l'Italia. Bravo Alfio, come sempre. Grazie. Jorgen Mortensen? Sì. Vuoi anche tu un biglietto per l'Italia? E questo è un film che si chiama Italiano per principianti, proprio un film basato su una classe di danesi che vogliono imparare l'italiano per poi andare a Venezia, testimonianza di, insomma, che un certo interesse per la nostra lingua e per la nostra cultura c'è. Diego, pronto? Pronto. Diego, tu invece dove sei finito, dove sei andato per insegnare italiano? Io sono andato a Città del Messico, in Messico, e insegno italiano là ormai da 2 anni e mi trovo molto bene. Quindi tu adesso sei in vacanza in Italia? Adesso sono in vacanza in Italia, le vacanze sì, le faccio in Italia, in una splendida città dell'Europa. Dove, come hai trovato lavoro? Tu sei partito per il Messico o l'hai trovato da qui? Sono partito per il Messico casualmente per una vacanza e ho avuto la buona idea di frequentare l'università Città del Messico e iniziare, ricominciare a studiare. E poi avevo bisogno di un hobby e mi sono presentato all'Istituto Italiano di Cultura Città del Messico e ho iniziato dopo un breve periodo di tirocinio, un esame e alcune prove ad insegnare in questa scuola. Tu a chi insegni italiano? Chi sono i tuoi studenti? I studenti sono ragazzi che vanno dai 16 ai 90 anni. Ma ci confermi quello che diceva Marco dall'altra parte del mondo, da Grecia e Siria, cioè che c'è comunque una certa considerazione per gli italiani come un popolo ancora di riferimento? È proprio questo. All'estero si riscopre questa considerazione per gli italiani basata su modelli magari rinascimentali che ancora vanno in un certo senso di moda per valori che sono echi lontani di valori, che lì si riscoprono con orgoglio in un certo senso, quindi tutto quello che è la cultura, l'arte, il mangiare italiano vengono esaltati come diciamo un valore, sì. Sì, come valori, insomma, come abbiamo estetici. Detto con in altre puntate, insomma, uno poi riesce anche un po', oppure riscopre il piacere di fare l'italiano per mestiere. E non c'è, sì, diciamo, riscopre l'italianità anche è un po' di esportazione, insomma, nasce quella che io chiamo la sindrome di pane ciuffata. Che era un film con Nino Manfredi in cui all'inizio lui si fingeva tedesco da emigrante, invece poi a un certo punto urlava. E poi a un certo punto risponde questa cosa, per cui l'Italia anche per noi di riflesso ridiventa un paese in cui tutto va bene, in cui si mangia bene. Ecco, sì, un po' nostalgico. Però insomma, però può essere però anche poi bello. Rispecchia, perché io queste vacanze ho proprio invece mi sono rimerso in questi sapori, diciamo. Grazie Diego per essere stato con noi. Io ringrazio anche tutti voi che ci avete ascoltato. Vi ricordo la nostra pagina su Facebook, Giro di Vita. Iscriveteci, commentateci, scriveteci anche a girodivita@radio24.it. Io sono Achille Corea, ringrazio Valerio Rocchetti per la parte tecnica, Fabrizio Intonti, e ci sentiamo domani con un altro Giro di Vita. Se avete una seconda vita o la state inseguendo, raccontatela alla nostra segreteria 828 1111.